Boys and girls, your attention please. Presenting a new exciting radio program. Tutti più buoni, tutti più carini. Oggi nel mondo comandano i bambini. Mamma, chiedo asilo. Tu hai la cassa acustica qua. Però infatti, eh. Ma poi basta, parlare col Cazzuni, idea vecchia. Basta, abbiamo già fatto abbastanza. La parola d'ordine da un po' di tempo a questa parte non è parlare nel Cazzuni, ma no. Associazione segreta. Ah. E quindi P2, P3, P4. E adesso, come se non bastasse, la struttura Delta. Anzi, la struttura Delta. Però struttura Delta, al di là di questo nome un po' da film di spie, struttura Delta è la solita delusione estetica, capito? Drago, sono rimasto così dallo stacco di prima. Forza! Ah, ecco, ecco, grazie. È una delusione estetica. Ma come estetica? Ma sì, dai, struttura Delta, ti immagini persone di altissimo livello che decidono le sorti dell'informazione nazionale. Poi senti le intercettazioni, invece di dialoghi alla Raymond Chandler, senti robe tipo... RTG1 non mette i dati delle elezioni scorse vicini a quelli delle elezioni di oggi, che stiamo a perdere de brutto. Ma tutte cos'è? Cose così. È una delusione estetica, vabbè, dai. Perché se il dialogo fosse stato alla Chandler, vabbè, invece... insomma, dai, mi sarei letto le intercettazioni così come si legge un romanzo. Invece, ah, oh, er papa sta a schiattà, che fanno RTG1? Campagna elettorale o er papa che sta a schiattà, me tira la garza? Non si possono leggere, sono proprio respingenti. Vabbè, ma il fatto che un gruppo di lavoro Mediaset lavorasse in Rai, facendo quindi gli interessi diretti o indiretti di Mediaset, che se vai a vedere è il maggior concorrente della Rai, anche se forse il vero concorrente della Rai è la Rai stessa, sì. E la Rai è, cioè Mediaset è proprietà del capo del governo, sì. E quindi fa insomma, ti dovrebbe indignare, no, la questione estetica. Ma scusa, ma la struttura Delta faceva quello? Ma sì, Ma mica avevo capito io. Ma cosa avevi capito? Ma niente, te l'ho detto, sono intercettazioni illeggibili tutte romane. Ho smesso subito. Figura da pirla della settimana a Radko Mladic. Bravo. Bravo Radko Mladic. Non capisco perché pirla, cioè criminale di guerra sì, ma pirla. Vabbè, scusa, si è presentato alla corte dell'Aia con un ridicolo cappellino con visiera e quando il giudice gli ha ordinato di toglierselo, lui ha risposto che aveva freddo alla testa. Allora gli erano tolto le guardie e lui si è messo a urlare: sono un uomo molto malato, quando freddo non sento più metà del mio corpo. Quindi vabbè, pirla, sì, dai. In effetti abbastanza pirla per meritarsi il titolo, che però ricordiamolo, in teoria non dovrebbe essere più assegnato a nessuno, vabbè, perché dai, è saldamente in mano solo a uno, che è Lars von Trier. Sì, lo so, però le settimane passano e i pirla aumentano. Scusa, è un peccato far finta di niente. Forse siamo stati troppo frettolosi quando abbiamo affermato che dopo la gaffe di von Trier a Cannes non ci sarebbe più stato spazio per altri pirla. In realtà i pirla ci sono e come. E tu sei un pirla, questo sei. Drago, vedi, anche tu nel tuo piccolo. Chiedo asilo. Obesità e mangiare la merendina fin dalla mattina e l'obesità. Ammetto che è difficile. Credevamo che fosse così e invece non è così. L'obesità è una cosa che colpisce a caso, non potete farci proprio niente. L'obesità. Obesità. Obesità. Quindi? Allora. Sei grassa. Puntata speciale di Sei Grassa, è puntata che oltretutto confuta tutte le puntate precedenti, perché abbiamo arrivato a questa ricerca della Louisiana State University negli Stati Uniti, che ha scoperto che i bambini che mangiano regolarmente barrette di cioccolato o dolciumi vari hanno meno probabilità di essere in sovrappeso da adulti rispetto a chi evita i dolci. A parte che chi l'ha mai sentita la Louisiana State University, poi sarà prezzolata da qualche produttore di cioccolato. No, ha fatto una ricerca indipendente e sorprendente, sorprendente. Cioè, chi mangia i dolci da bambino uno dopo l'altro altro diventa grande e ha meno probabilità di diventare obeso. Sì, esatto. Però è una sfiga, scusa. Ma cosa? Una sfiga per chi? Perché io quando ero piccolo andava di moda non far mangiare i bambini cioccolati, dolci, eccetera. E quindi adesso avrei potuto... Adesso assolutamente, anzi i genitori cominciano ad abbuffare i bambini con cioccolatini, merendine. Ma allora io posso cominciare adesso? No, perché a 40 anni assolutamente meglio non cominciare, la ricerca parla di bambini. Vabbè, scusa. Ma è sfiga questa, cos'è? Ma proprio perché tu non hai mangiato i dolci da bambino che adesso il tuo organismo reagirebbe malissimo, quindi non si cioè può... Cioè io non ho sviluppato gli anticorpi ai dolci. Infatti, gli scienziati proprio parlano di una specie di disciplina alimentare che i bambini, mangiando i dolci fin da piccoli, imparano ad avere, cioè sono più consapevoli delle loro abitudini dietetiche e sanno come gestire le calorie dei dolci, capito? Quindi se cominci da vecchio non funziona, sbracchi, ti avveleni. Vedo che hai capito perfettamente così, questa pancetta qua, però guarda che piace la pancetta. Può darsi, però può anche portare dei problemi di salute, tutto quanto. Ma la salute sai com'è? Che se ne frega, cioè quando hai 40 anni la salute, è quando ti avvicini ai 50 che la salute comincia a diventare importante. Prima... Ai 40 c'è ancora l'inconsapevolezza. Vai, quindi barrette di cioccolato. Sì, non vabbè, solo, non solo. Dal diario del bambino drago. Sono 10 mesi ormai che sto in questo asilo. All'inizio credevo di non potermici abituare. Le dimensioni minuscole degli oggetti, il gran baccano dei bambini tutti insieme, le nuove regole e i nuovi orari. Poi, devo dire, tutto è filato liscio. 10 mesi in un asilo è un po' come 10 mesi in un convento o 10 mesi in una cella. L'unica differenza è che qui qualche volta ti diverti. 10 mesi in un asilo. A furia di ragionare in termini infantili, temo di avere subito a mia volta una regressione, senza essermene reso conto. Perché lo temo? Perché la mente è un muscolo che va allenato. Se non si tiene la mente sotto sforzo di continuo, il rischio è quello dell'atrofizzazione. Un rischio che qui all'asilo è ben presente. E se la mia mente fosse atrofizzata? E se anche senza accorgermene io mi fossi allineato allo standard solito della nazione, che è uno standard di immaturità, volgarità e sfoggio delle proprie emozioni? Anzi, io sono regredito di sicuro, altrimenti perché starei qua a leggere questa serie di fesserie alla radio? E perché poi crederei nel mondo di Pushigé? Cos'è il mondo di Pushigé? Si entra in punta di piedi nel mondo più bello che c'è, anche se vedi non credi al mondo di Pushigé. Drago, svegliati! Svegliati, Drago, svegliati! Non siamo nel mondo di Pushigé, basta con questa cosa. Cos'è? Allora, basta sta musica. Ma cosa la musica, ma Carmelo. Ma non è. Ma non è, ma cosa stai dicendo? Ma qui è un mondo alternativo. Ma che è? Il mondo dell'eroina. Ma no, devi smetterla con l'eroina. Ma smettila con queste cose delle droghe, non è una droga. È un mondo alternativo, basta volerlo, ci entri. In punta di piedi, delicatamente, tu entri. Chiedo asilo @radio24.it. Mandate le vostre droghe in una bustina per Drago, col cucchiaio, l'acemostatico, la siringa. Che siano ermeticamente chiuse. Sì, anche le siringhe. Sì. Anche le bustine. Anche le droghe. Sì, certo. Si entra in punta di piedi nel mondo più bello che c'è. E se vedi non credi al mondo di Pushigé. Chiedesino, radio24.it. senso.